queste nuove regole e che cosa significa per le banche, a pagina 4 Alessandro Graziani e Moria Longo ne raccontano big italiani già sopra i limiti, il fatto che tutti gli istituti di credito temevano queste nuove regole, tutti le aspettavano con ansia, ma alla fine sia tempi che numeri usciti dall'accordo di Basilea appaiono meno severi del previsto. E diciamo che tutti i grandi istituti bancari italiani per il Sole 24 Ore hanno già centrato in gran parte gli obiettivi stabiliti da Basilea 3. Solo Banco Popolare e Monte Paschi Siena, racconta il Sole, devono ancora centrare gli obiettivi. A pagina 4 ci sono tutti gli elementi sull'impatto degli istituti. Mi devo fermare qui, siete pronti? Iniziano i talk show, ritornano i talk show, da stasera credo che ci sia Ballarò con Floris e trovate sulla stampa la nuova regola. Il direttore generale della RAI, Masi, ha mandato una lettera ai conduttori a dire: sono stanco di vedere il pubblico che partecipa con applausi. Ecco il pubblico col silenziatore. Il direttore generale dice: il pubblico non deve partecipare con applausi ai talk show. Dovrà essere imparziale, selezionato, ben istruito su come comportarsi durante il programma, altrimenti rischia di trascinare il consenso, strappare il primo piano, entrare nelle case degli italiani, contagiare il pubblico e formare opinioni. Cari spettatori, andate a vedere i talk show in silenzio, come delle marionette, come dei burattini. Non potete applaudire, se no orientate il consenso. 24 mattino. L'intervista. Alle 8 e 22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, protagonista dell'intervista di oggi. Lo saluto, è il magistrato Giuseppe Ayala. Buongiorno, dottor Ayala. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Attualmente è magistrato all'Aquila, ma insomma il grande pubblico anche la ricorda e la conosce come amico, collega di Falcone e Borsellino. Senta, lei ha preso carta e penna su Repubblica e ha fatto una considerazione che vorrei capire se è una provocazione oppure no. Ha detto: da oltre 18 anni Cosa Nostra fortunatamente non ammazza più magistrati, uomini delle forze dell'ordine, politici, giornalisti. E allora perché tutte queste scorte? Guardi, non è affatto una provocazione, è una riflessione che ho offerto a chi ha responsabilità della scelta se assegnare o meno le scorte a qualcuno. E mi pare che sia una considerazione seria. Poi, per carità, ripeto, io credo molto nel principio di responsabilità. Io mi sono preso la responsabilità di fornire questa valutazione. Poi, naturalmente, ognuno si prenderà le sue. 18 anni sono tanti. Dal 1982, Cosa Nostra, io parlo soltanto di Cosa Nostra, non di tutte le forme di criminalità organizzata italiane, per fortuna di tutti non ammazza più. Allora, siccome io vado in giro, soprattutto a Palermo, è noto un proliferare di scorte, non mi voglio ergere a giudice di questa o quella scelta. Francamente, raccolgo anche opinioni, diciamo, dei conoscenti, gli amici, c'è un diffuso stupore sulla necessità di tutte queste scorte. Lei questo stupore l'ha anche riassunto in una battuta che in questo pezzo che io non mi azzardo a pronunciare in siciliano, in palermitano. Lo faccio io? Sì. Ma una cosa che mi è stata chiesta non soltanto una volta, al passaggio di qualcuno accompagnato alla scorta, mi è stato chiesto: ma a chi stuculava ammazzare? Traduzione per i non siciliani: ma a questo chi è che lo deve uccidere? E io mi sono rifugiato nel silenzio, perché la cosa mi ha messo un po' in imbarazzo. C'è una forma di dileggio che, anche se non è rivolta a me, ma a terzi, è sempre sgradevole, perché riguarda comunque sempre scelte delle istituzioni. Naturalmente io sono un uomo delle istituzioni. E allora ho fatto queste considerazioni, poi chi di competenza riterrà se avviare una cauta, per carità, non neanche a dirlo, una prudente, magari progressiva rivalutazione di alcune scorte. Perché tutto questo? Perché ci sono altri interessi preminenti ai quali potrebbero essere assegnati i poliziotti, i mezzi e anche le risorse. Uno spreco di risorse e di uomini. Senta, lei racconta anche che ci provò a rinunciare alla scorta, cosa che è riuscita a fare più di recente, ma ci provò la prima volta, credo, con il ministro dell'interno Napolitano, l'attuale capo dello Stato, che disse: ma lei è matto. No. Detto così, no, io sono brutale. Ero era all'epoca il governo Prodi, era nel 98, il Napolitano era ministro degli interni, io ero sottosegretario alla giustizia, gli telefonai un giorno e gli chiesi un appuntamento, che ottenni subito naturalmente, e gli spiegai il perché secondo me erano già 6 anni e avevo già capito, avevo la presunzione di aver capito che cosa non aveva completamente cambiato strategia. Il tempo mi ha dato ragione, questo è sotto gli occhi di tutti, non si può discutere. E il Napolitano mi disse: Beppe, tu c'avevi pure ragione, perché poi tu di queste cose te ne intendi, e tra l'altro è della tua vita che stiamo parlando. Però io non mi sento di adottare questa scelta, perché tu, cito testualmente il Presidente, sei anche un simbolo di quello che è accaduto a Palermo, e quindi mi pare giusto che potrebbe essere letto come un segnale di disattenzione dello Stato nei tuoi confronti. Mi sembra un argomento, devo dire, molto ragionevole. Giorgio Napolitano, non dobbiamo scoprire nulla, è uomo delle istituzioni, insomma, con la U maiuscola e con la I maiuscola, per cui mi arresi. Era il 98, poi ci ho riprovato successivamente e questa volta con successo. Ce l'ha fatto. Senta, per molti lei racconta la revoca della scorta è una perdita di uno status symbol, parliamoci chiaro. Cioè, ma ci sono persone, secondo lei, quante persone sono in giro con la scorta, magari per minacce presunte di cosa nostra, ma si potrebbe rinunciare? Ma guardi, purtroppo dico, è da ipocriti negare che in certi ambienti vige un po' il pensiero che se non c'è la scorta non c'è nessuno. Diciamo, questo non riguarda tutti assolutamente, le generalizzazioni sono sempre sbagliate. Però, ripeto, è da ipocriti negare che qualcuno ragiona in questa maniera. Io però dico nell'articolo, e ripeto adesso, escludo che sia questa la ragione per cui vengono assegnate, a mio parere, un po' troppe scorte e soprattutto non le vengono revocate. Escludo che sia questo. Non si vuole prendere atto di un dato oggettivo che è il lungo tempo trascorso. In fondo, guardi, Cosa Nostra è tornata a, se si può usare questa parola, alla tradizione. Cioè, Cosa Nostra nella sua storia, l'uccisione di esponenti delle istituzioni, di uomini dei politici, veniva evitata accuratamente. Poi si può dire anche l'arco temporale dalla fine degli anni 70 fino al 92, quindi per circa 15 anni, purtroppo l'elenco delle vittime è talmente lungo che non ci possiamo neanche azzardare a ripercorrerlo. Poi ha completamente cambiato strategia ed è tornata alla tradizione, quindi io credo, e lo ribadisco ancora, per fortuna di tutti noi, che sia stata ripristinata la tradizione. Allora, sì, cioè, a quello è arrivato una busta con un proiettile a casa, una minaccia. Per carità, io però mi permetto sommessamente di ricordare che a Falcone e Borsellino buste col proiettile non ne arrivarono mai, arrivò altro. Quando, ma erano altri tempi. Quando doveva colpire la mafia colpì. Appunto. La ringrazio Giuseppe Ayala per essere stato con noi, grazie davvero magistrato, oggi all'Aquila, ma ripetiamo, insomma, lo conosciamo tutti come collega di Falcone e Borsellino, oltre che amico di Falcone e Borsellino. Grazie, buona giornata ovviamente, e noi parliamo dopo pubblicità e meteo del nostro sondaggio, i padri separati che hanno avuto in Matteo Sereni, portiere del Brescia, l'ultimo emblema di una persona pubblica che ha fatto outing dicendo: questa legge non mi permette di vedere i figli. Noi è questo che vi chiediamo: secondo voi, nell'affido dei figli, la legge garantisce parità di trattamento tra padre e madre? Un tema che purtroppo coinvolge moltissimi italiani, è la domanda del nostro sondaggio. Le 8 e 33 minuti, eccoci qua a parlare del nostro sondaggio di un tema che purtroppo riguarda milioni di italiani, vale a dire le separazioni con figli, e purtroppo anche questo tema è la contesa sui figli. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Allora, ci ha pensato il portiere del Brescia, Matteo Sereni, ultimo uomo pubblico a rilanciare questo tema in maniera anche molto impattante dal punto di vista della comunicazione, perché domenica scorsa il Brescia batte il Palermo, Matteo Sereni viene eletto miglior giocatore, no? Queste cose che avvengono, miglior giocatore della partita, si avvicina ai microfoni di Sky e dice, fa una considerazione non legata proprio al calcio. Sono contentissimo perché speravo proprio di arrivare in questo momento a essere migliore in campo per poter dire salutare i miei figli che non li sento e non li vedo da tantissimo tempo, non per volere mio. E insomma, non vedo i figli, li saluto, non li vedo da tantissimo tempo, non per volere mio. Poi ha ribadito ancora, intervistato più a mente serena, a Sky, che cosa? Ho pregato tanto perché il Signore potesse darmi la possibilità di parlare con Sky, veramente, perché ormai la comunicazione a volte è anche questa, e allora io riesco a dire a loro che li voglio bene, che mi mancano tanto, e arriverà il momento che staranno anche con me. Allora, non vogliamo entrare nella vicenda. Ieri la moglie, la ex moglie di Matteo Salvini, ha dato una versione ovviamente opposta, ma la vicenda è questa: un uomo pubblico che dice io non vedo più i figli, è l'ultimo solo in ordine di tempo papà. Oggi il giornale titola "Questo non è un paese per papà" in un commento di Stefano Zecchi, cioè papà separati che lamentano la legge non è equa, la legge non ci permette di vedere i figli, o meglio l'applicazione della legge viene fatta, ma poi questo non è un paese che favorisce i papà separati, perché c'è sempre la mamma in primo piano. Come ha denunciato, anche denuncia da tempo, Tiberio Timperi, che saluto, buongiorno Timperi. Buongiorno, conduttore di Mattina in Famiglia, ma anche in questo caso l'abbiamo chiamato perché uomo che da un po' di anni ha scandito, io passo la vita in tribunale, la mia vita, gli ultimi 5 anni scandito in tribunale anche con cause e controcause per la questione dell'affidamento dei figli. Voglio salutare anche Ritanna Armeni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Tiberio Timperi, le ha fatto effetto vedere il portiere del Brescia che dice ringrazio, ho pregato tanto per essere il miglior giocatore in campo per arrivare qui a dire cari figli, eccomi qua, visto che non vi posso vedere, no, vi saluto. No, a me non ha fatto effetto il suo appello, più che altro ha fatto effetto il silenzio fragoroso di tutta la classe politica, opposizione e maggioranza, il silenzio dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché in Italia si è resa necessaria questa legge sull'affidamento condiviso proprio per tutelare, nel nome del figlio, la bigenitorialità, che prima non era tutelata perché il figlio veniva sempre affidato alla mamma. Adesso le cose sono cambiate, il figlio non viene più affidato ma viene collocato dove? Sempre presso la mamma. La donna è sfruttata, la donna non ha le stesse opportunità di carriera, va bene, però sembra che l'unico momento giusto per lavarsi la coscienza di tutto questo sia il divorzio. Un attimo prima del divorzio tutti i femministi, subito dopo però bisogna riconoscere alimenti, mantenimenti, e non è un caso che l'80% degli uomini separati non ce la faccia più andare avanti con il suo stipendio. Ma non ne faccio un discorso di carattere economico, ne faccio un discorso di carattere sociale. I figli vengono sempre affidati alla mamma. Quando un papà che vuol fare il papà, perché poi ci sono anche quelli che se ne fregano, certo. Quando un papà vuol fare il papà e chiede al suo avvocato, chiediamo l'affidamento, l'avvocato ti risponde è impossibile. E allora se un avvocato ti risponde che è impossibile, vuol dire che la legge non è uguale per tutti, padre e madre non hanno gli stessi diritti, la mamma è più uguale davanti alla legge, il papà no. Non basta una legge come quella sul condiviso per cambiare un orientamento culturale, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che si è inceppato, bisognerebbe avere tribunali che facciano solo diritto di famiglia, avvocati che facciano solo diritto di famiglia, sembra una verità elementare, ma non è così, non è così. Lo posso garantire. E poi mantenimento dei figli, sacrosanto, ma legato alle reali esigenze dei bambini, perché altrimenti poi diventa una rendita parassitaria e il matrimonio in Italia è interpretato come una rendita vitalizia. Tra l'altro lei ha fatto una lettera a sfogo pubblicata da Panorama nell'ultimo numero, dicendo appunto, sì, riepilogando un po' obbligato. Tutta la sua vicenda. Ecco, la no, vicenda. Sono stato obbligato, avrei fatto a meno di tutta questa visibilità, di questo polverone, che poi è montato, evidentemente c'è un disagio. Io l'ho fatto perché il Corriere della Sera, bravo il cronista, probabilmente ha assistito, si è informato a un episodio che mi riguardava e ha scritto che io sono stato denunciato da mia moglie. E allora, lavorando per la RAI, lavorando per il servizio pubblico, essendo io un personaggio pubblico, ho un diritto dovere davanti al mio pubblico, per l'azienda nella quale lavoro e soprattutto davanti a mio figlio, non adesso, più in là. Sì. E ho dovuto purtroppo, mio malgrado, raccontare quello che è successo, che non è assolutamente piacevole, e io ho pensato che questa cosa sia capitata a me forse solo per una ragione, perché ho visibilità ed è giusto che la metta a servizio, restituisca questa fortuna che ho avuto dalla vita, dalla mia professione, a tutti quei papà che dormono nelle automobili, che vanno a mangiare la Caritas, non è un caso che in tutta Italia stiano sorgendo come funghi case accoglienza. Questo è vero, le case accoglienza e anche associazioni. Io a questo proposito vorrei coinvolgere i Tan Armeni. Ci sono tante associazioni, padri separati, sempre più gli appelli disperati di papà che dicono appunto la legge vede solo la mamma in primo piano e noi siamo i veri discriminati in caso di separazioni con figli. Lei come accoglie questi gridi di dolore? Sono gridi di dolore reali secondo lei oppure c'è un... Guardi, io credo che Tipperi su una cosa abbia assolutamente ragione, e glielo dico subito anche se la sua trasmissione si chiama Nero, purtroppo la realtà ha molti colori. E il ha ragione nel dire che i processi culturali sono una cosa, le leggi sono un'altra. Allora oggi il processo culturale è importante, il processo culturale dice, e questo come dire alle donne non può secondo me che far piacere, che oggi ci sono molti uomini che vogliono essere responsabili della loro paternità. Va di bene, questa è una cosa che nel passato non c'era, c'era molto di meno, e questo è sicuramente un fatto positivo. La mia domanda però, domanda che pongo a me stessa e a tutti, è questa: questo senso di responsabilità c'è sempre o c'è solo al momento del divorzio? È una cosa che, diciamo così, un uomo ha dal momento in cui, diciamo così, una diventa donna padre, rimane in attesa del bambino, cosa che, come sappiamo, spesso non avviene, oppure è una cosa che avviene nel momento del divorzio? Perché, come sappiamo, il momento del divorzio è un momento della separazione, sono momenti, diciamo, brutti nella vita delle persone, nelle quali vengono fuori purtroppo i sentimenti peggiori, non i sentimenti migliori, l'acrimonia, la rivendicazione, spesso l'odio. Quindi non si può giudicare rispetto a questi momenti, bisogna avere una visione, diciamo così, un po' più calma e un po' più ampia della questione. Allora il problema è la responsabilità. Perché nella pratica, secondo me, avviene quello che Tipperi lamenta e che a me fa piacere che alcuni uomini ormai lamentino, perché significa che un senso di responsabilità sta venendo fuori. Avviene questo perché nella vita concreta prima del divorzio, probabilmente, la cura dei figli in grandissima parte è affidata alle madri. Sì. Allora viene il dubbio. Perché i padri lo rivendicano allora? Guardi, adesso io metto da parte la questione economica, che è importante, ma secondo me sono due cose abbastanza differenti, perché altrimenti mischiamo gli affetti col denaro, che voglio dire spesso c'entrano, ma lasciamo perdere in questo momento. Perché viene fuori in quel momento e non viene fuori prima? Ecco, se viene fuori solo in quel momento, secondo me viene fuori in una luce negativa. Cioè fuori in un momento in cui c'è una lotta, ed è una lotta per la supremazia, per il potere che si esprime sui figli. Cioè, nel momento, non è un fatto positivo. Lei che nel momento della separazione, lo so che il termine è brutale, è come se la donna incassasse un credito acquisito prima della separazione, perché in genere è la donna, la madre, che cura più i figli. Come dire, io immagino che un giudice in quel momento, verifichi le reali possibilità, le reali responsabilità e anche ciò che è avvenuto fino allora. Adesso diciamo purtroppo anche per le donne, fino allora sono state loro in grandissima parte, e questo credo che non si possa contestare, no? Voglio dire, se si vede il lavoro domestico, se si vedono i dati, le protagoniste insomma di questo aspetto, protagoniste. Diventa a quel punto probabilmente ovvio, diciamo, anche se forse non del tutto giusto, che nel pensare all'affidamento dei figli si pensi alle donne. Che poi oggi, secondo me, venga fuori un movimento delle associazioni di uomini. Lei ha ricordato il portiere del Brescia, ma io ricordo Ronaldo, che soltanto credo 2-3 mesi fa ha detto: io prenderò mio figlio, lo terrò con me, lo alleverò, lo educherò io. Quale Ronaldo? Cristiano Ronaldo, quello che ha fatto un figlio in America con una che non sei, oppure Ronaldo il calciatore brasiliano? No, perché Ronaldo il calciatore brasiliano. Quello brasiliano, ah, ok. Ecco, il quale ha detto: io prendo il mio bambino che è nato in una relazione, e lo prendo e lo educo io, me lo tengo io, ed ha detto: voglio diventare padre, per me è importantissimo essere padre. Questo per me è un cambiamento culturale di grandissima importanza. No, ma io intanto nel voler anche salutare, perché ci sta ascoltando, Marino Maglietta, buongiorno. Maglietta, è uno dei cosiddetto il padre putativo anche della legge sull'affido condiviso, fondatore dell'associazione Crescere Insieme. Vorrei, Tipperi, io tra un minuto mi devo fermare per informazioni sul traffico, ma dice Rita Armeni insomma che il giudice in genere verifica il fatto, una effettività effettiva disponibilità della madre, un effettivo impegno della madre fino al momento della separazione, che è maggiore rispetto a quello degli uomini, che magari a orologeria scoprono di diventare padre quando c'è l'affido. Sicuramente ci saranno anche questi papà, per quanto mi riguarda le cose non stanno così, e purtroppo noi abbiamo un'immagine un po' sbagliata della giustizia, modificata, la cui percezione è stata modificata dai film e dai telefilm americani. Quando vai davanti al giudice, un'udienza mediamente dura dai 5 ai 7 minuti, come fai a capire chi hai davanti? Perché poi la verità processuale è una cosa e la verità reale è un'altra. Ci sono delle denunce campate in aria fatte apposta per ostacolare il condiviso. Io ricordo la mia personale storia, via Crucis, sono stato denunciato per aver maltrattato mio figlio, per aver picchiato la mia ex cognata, per aver ingiuriato la mia ex moglie e per violenza privata. Le denunce sono state archiviate con motivazioni interessantissime. E allora, santo cielo, tutto questo poi va a detrimento del rapporto padre-figlio, perché noi dobbiamo pensare al figlio, ma ricordiamoci che il benessere del figlio passa anche attraverso il benessere dell'altro genitore non affidatario, che quasi sempre, spiace dirlo, è la mamma. Ronaldo ha fatto quello che ha fatto, forse perché non è in Italia. In Italia, se un papà dice io voglio fare il papà, ci penso io? No. Prima arriva la mamma e poi il resto. Il papà è un genitore. Lei ha scritto a Panorama, qui la mamma, qui in Italia la mamma è sacra. Vero. Devo dare le informazioni sul traffico. Detto che per ora è un plebiscito quasi. Il 93% dei nostri ascoltatori nel sondaggio dice no, secondo noi non c'è nell'affido dei figli parità di trattamento tra padre e madre. Presumo che questo 93% dica che ci sia uno sbilanciamento a favore delle madri. Questo lo presumo. Comunque che non ci sia parità di trattamento. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora vi prego di essere sintetici un paio di ascoltatori e cominciare da Roberto da Milano. Buongiorno, che ci hanno chiamato all'800240024. Roberto. Buongiorno dottor Milan. Dica. Io volevo semplicemente portare una testimonianza e fare una considerazione su quello che ha detto la dottoressa che è lì con voi, che non sì, Ritana Armeni. Ok, la prima cosa è la testimonianza. Io sono reduce di una separazione conflittuale, eccetera, sono stato denunciato, immagino tipo il dottor Timperi, eccetera, no? E praticamente io, se non avessi avuto un'attività che mi dà uno stipendio buono e dei soldi da parte, non avrei mai più visto mia. Quindi vita, l'aspetto proprio economico. Vi chiedo la vicenda personale, chiudiamola qui Roberto, perché poi non possiamo entrare, non la conosciamo la sua vicenda personale, però l'aspetto economico è interessante. Mi dica però cosa pensa di cosa ha detto Ritana Armeni e voleva fare la... No, le due era una considerazione su quello che ha detto. Lei parte da un pregiudizio, cioè quando dice ma il padre diventa padre solo nel momento della separazione, è un pregiudizio che non può esistere, perché prima di tutto è una cosa molto antica quella di dire che sono solo le madri che curano i figli, perché nel mio caso il 70% delle cure e anche in altri casi, per cui è inutile non è una frase che Ritana Armeni diceva in assoluto, diciamo, a volte è così. Serena da Roma, buongiorno. Buongiorno, invece io mi trovo molto d'accordo con la signora Armeni, spessissimo, anche senza che ci sia il tribunale in mezzo, come nel mio caso, i papà spesso fanno i papà quando vogliono, ma litigano per avere i diritti anche se dopo non li rispettano. Si tratta di diritti e non di doveri per la maggior parte dei padri, che è una delle ragioni spesso per cui si arriva proprio alla separazione. Guardi Serena, no, io la ringrazio, c'è da dire che c'è un sms di Emanuela, che forse Ritana Armeni troverà d'accordo, cioè spiega in una frase quello che Ritana Armeni voleva dire: la mamma è più uguale al momento dell'affido perché è stata più diversa fino ad allora. Questo è il parere di Emanuela. Prima però di andare da Ritana Armeni vorrei Marino Maglietta, ripeto, padre putativo della legge sull'affido condiviso, fondatore dell'associazione Crescere Insieme. Perché ci sono così tante associazioni di padri separati che si lamentano? Vuol dire che la legge non funziona o che viene applicata male o rientra nelle conflittualità che purtroppo non possiamo prevedere? L'animo umano, si sa, come dice Ritana Armeni, vengono fuori in queste vicende poi gli aspetti più negativi dei nostri caratteri. Direi che diciamo che ci sono parecchie cose da mettere a fuoco, però partirei dall'ultimo spunto e poi ci arriviamo a marcia indietro. L'ultimo spunto di cui si è parlato è questo fatto della scoperta della paternità al momento della separazione. Io prendo proprio il caso meno favorevole, quello di un padre che effettivamente è stato poco presente, pur riconoscendo, spero un po' tutti, che le cose stanno cambiando. Ma è normale, se c'è un rapporto di coppia sano e ci sono ruoli leggermente diversi, c'è una presenza maggiore della madre, il padre non se ne duole e non se ne preoccupa finché ha una persona in casa che media in senso favorevole, che prepara l'accoglienza, che gli fa trovare, come dire, che fa da mediatore rispetto al rapporto con i figli. Tutti sanno che lui, mentre non è in casa, comunque si sta occupando della famiglia. Diceva Dustin Hoffman: io ho portato il becchime. Tutto questo nel momento della separazione viene meno, ed è logico che il padre allora faccia un passo avanti e dica, non avendo più in questo momento un non è una visione un po' retro, voglio dire, il becchime ormai non lo porta l'uomo, lo porta l'uomo e la donna, no, a volte il 50%. Proprio, ho detto prima, ho preso deliberatamente il caso del padre assente, certo, che porta solo il becchime della madre casalinga, per dire che anche in quel caso, meglio dire neppure in quel caso, è giusto puntare il dito contro il padre. È logico che si faccia avanti in quel momento lì, assuma, come dire, si renda conto che non è più, c'è più nessuno che media e che il rapporto col figlio deve vivere in prima persona. Lo trovo assolutamente normale. Poi vorrei, logico, direi un'altra cosa poi, che non vorrei più sentir parlare di legge che punisce i padri. La legge in vigore prevede il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura da entrambi. È l'applicazione della legge che è completamente fasulla. Si è inventato, e Timperi lo diceva, il genitore collocatario. Dico inventato perché il messaggio della legge è esattamente contrario. Dalla legge precedente è stato cancellato ogni passaggio che prevedeva un ruolo diverso, l'assegnazione della casa, l'affidamento stesso, l'esercizio della potestà, tutte cose di cui sono investiti. Ho capito, ma un figlio dovrà stare, cioè che fa, con la valigia, sta, non so. No, questo... questa è una vecchia storia, questa del ping pong e del pacco postale, non è assolutamente così. Quello che è da prevedere è l'assegnazione di compiti di cura a entrambi i genitori. Dopodiché certamente ci potranno essere circostanze, situazioni in cui si frequentano anche due case più equilibratamente, ma io vorrei sapere qual è il figlio che, di fronte agli inconvenienti innegabili del frequentare due case, preferisce perdere un genitore pur di frequentarne una sola. Perché non dimentichiamoci che la separazione è una situazione difettosa, la famiglia in crisi, quindi non si può pretendere una soluzione perfetta per una situazione conflittuale. Ma è chiaro, io vorrei Ritanda Armeni ha sentito, insomma, si sono divisi un po' i nostri ascoltatori anche su questo ruolo. Gli ascoltatori, io sono partecipata alle trasmissioni di Radio 24, sempre molto interessanti, ma in genere gli uomini in questo caso scrivono moltissimo, perché evidentemente è un problema che sta loro molto a cuore. Certo. Io vorrei rispondere soltanto su una cosa: stiamo attenti a questa cosa, io porto il becchino e voi tu invece badi ai bambini e dai amore e cura, perché altrimenti si potrebbe dire benissimo, questa legge dice esattamente questo, perlomeno la situazione, non la legge, come giustamente è stato ricordato, dice questo: il padre continua a dare i soldi e la madre continua ad occuparsi dei figli. Invece non è così, è giusto che non sia così, è giusto che un padre sia presente e chieda di essere presente. Io su questo vorrei chiarire, non ho dubbi, anche perché qui stiamo parlando di padri e di madri e dimentichiamo i figli. Sì, ma il grido di dolore, cosa vogliono? No, ma certo, ma il grido di dolore di Timperi è che anche laddove un padre vuole essere presente, è non tanto la legge, ma l'applicazione della legge è fatta in modo per cui secondo me non è solo l'applicazione della legge, questo Timperi me lo deve consentire, e anche che le separazioni sono un momento molto complicato, l'ho già detto, nella quale vengono fuori probabilmente delle cose che non c'entrano niente con la legge. Questo è un c'è po' conflittualità problema, personale, che siccome la legge non può dire tutto sui rapporti umani, ma mai, non solo in questo caso, la legge è una parte delle relazioni umane, non è tutto. È ovvio che poi le relazioni umane si possono scatenare in modo del tutto negativo, e io non nego che si possano scatenare per le donne, anche per le donne, dicendo questo. Ah, si sa che siete più cattive di noi, se vi ci mettete. Ecco, lei ha detto la solita battuta misogina delle 8:50. No, misogina su una battuta. Ha detto la solita battuta, mi me l'aspettavo, qualcuno doveva dirla, le è capitato. Va bene, quello che voglio dire è che il problema in questi casi, e cerchiamo di distinguere due, noi che in questo momento non siamo in una situazione che io capisco conflittuale e dolorosa tra i problemi della legge e i problemi delle relazioni umane. I problemi delle relazioni umane, la ripeto, questo Timperi ha assolutamente ragione, e sono difficilmente collocabili e gestibili attraverso una legge. E lì è un'altra cosa, lei si immagini la stessa legge con due persone, come dire, consenzienti, che dicono vogliamo il bene per i nostri sarebbe figli, perfetto, allora va bene, no? Sta a casa tua questo bambino, però io lo vengo a trovare quando voglio, e va bene così, certo, perché lei si immagina, no? La legge è chiara. Allora io mi devo fermare, ringrazio tutti, Ritanna Armeni, Tiberio Timperi, Marino Maglietta, per essere stati con noi, con Valeria Coffaro in redazione. La linea va a Oscar Giannino, l'appuntamento a domani 24 mattino e tra radio24.it, a domani.